morti in Kiev. Ah, tu, sono morti 130.000 persone, me lo sa. Quelli che hanno portato con gli otto treni dell'esercito, non te lo ricordi più, tutte le persone che sono morte. Ho già visto, cioè, da stabilire quante minchiate hanno messo, pure lascia perdere. Cioè, ma tutti gli anni ci sono i morti, anche per l'influenza. Quante vittime fa l'influenza? Ma le vuoi bombabilità? Ma lascia perdere, i danni un po' quei cazzate. Non è più debole di un altro, ma la pipina è una cosa del genere, mi. Secondo me, Bruno, io la penso così, secondo me sono i danni cazzate, poi. Io non la penso così perché lì sono molte persone tutte insieme e quando c'è una cosa del genere è normale che muoiano tutte insieme, non una febbre non ti fa morire tutte quelle persone insieme, tu lascia perdere, che ne può trovare uno che non ha difese immunitarie e allora magari è più debole e lo frega, ma non tutte quelle persone insieme. Ma non ti ricordi, forse tu il telegiornale non le guardati, allora che se portavano, c'era la fila di camion dell'esercito tutto pieno di mare, non te la ricordi più quella storia? Ma sono uscito. Sì, già, adesso è uscito. Ma se Antonio è sparito. Hola, chico! Mi senti, Luca? Sì, forte e chiaro. Ma chi è che è sparito qua? Stavo solo cambiando radio, sapo. No. Ho capito. Ho detto, se non stavo uscendo io. Sì, già, io già ti sento, capa. C'è qualcosa che non va. Gianni. Dimmi. Guarda questo passaggio. Aspetta, guarda, così sto uscendo. Sì. Non sono uscito nel secondo passaggio, no? No. Cazzo, c'è qualcosa che non va. Hai sbagliato qualche cosa, non capisco. Può essere, però. No, già, Me lo ricontrollo. E che ci vuole? L'uscita una va al barattino e l'altra al coso, che non ci vuole nulla. Ho capito, non ci vuole nulla, però questo c'è il cavetto, c'è un cavetto particolare, no? Non è che c'è il cavetto, no? Che va dal ferratore al non PL, un cavetto, forse ho sbagliato foro, aspetta, che controllo. Ah, ho capito. Non è normale, dai, come entrata, io sono ad attacchi a piede, buco. No, c'è un cavetto in dotazione che tira la keyboard, sai, puoi puntare a 8 e a 8, un cavetto che va uno dalla corratore al coso, capito? Quindi sicuramente ho sbagliato forte. Adesso controllo a vedere, no. Hai sbagliato così, perché è impossibile una cosa del genere, aspetta. Vabbè, capita. Vabbè, ma a me non mi devi capitare che cosi. Capita ai migliori professionisti pure. Ah, tranquillo, va a fare cose che devi fare, funziona tutto bene. Buco è sbagliato, aspetta che cambio foro di ingresso sulla radio. E a questa età? È la massa di nell'aria. Sbaglia buco. Dai, datemi un attimo di bianco, già torno subito. Vabbè, andando con tutto il suo splendore, ragazzi. Ma guarda, sta arrivando a Santiago 2 qua, ora sei zelli. Ma è fatti Forrugia a carne con la Santiago 2. Forrugia è già di non altro, ci arrivano i due di segnali. Ah, e ci ti dà vedo. Chi c'è qua? Io! Ciao Gianni, poi che c'è Claudio, che sa, e poi Antonio, e poi Luca! Ciao Luca, buonasera a tutti, dai! Chiara vita mia, che bello! Ma mi fate il fracco, forte di tutti il fracco! Vabbè, sarebbe anche in Valomonte, ma pure io già non so più da meno, no? Tu sei solo zero, cioè su tre. Vai, finirà, vai. Su tre, sì, tra i più stare. Quasi fa lo scala. Ah, vabbè, già. Non potrà prendere una cosa, bellina. Piccolino, mamma sta delle varia. Il più piccolino. Cappa, avanti Franco. Ehi, cappa, tu, mi ascolti, sì? Sei a fondo scala, no, perché c'è Smitter. Ehi, cappa, cappa. Allora, già. E qua siamo, fra. Un casino con questo coronavirus, se voglio qui fa pure sci. Ah, io ero a pescare, sono rientrato poco fa. E ha preso due rattini e un saragone, boh, basta. Poi me ne sono salito perché era freddo e stava entrando vento di maestrale. E dove sei andato, fra? Giù a Stintino ero, al coso, a Ezimanno. Ezimanno. Ah, Ezimanno. Ho capito. Ah, dalla spiaggia così. Vabbè. E perché lì cosa ci sono? Rocce anche. No, è tutto spiaggia lì. No, quando la canna era lancio ho provato. Ho fatto due un paio di lancio, poi c'era freddo. Poi è iniziato a entrare questo vento di maestrale ghiacciato e me ne sono tornato. Ah, perché i saraghi di solito stanno dove ci sono le rocce. Pensavo che fosse la più rotta. Ma lì c'è sabbia secca, capito? Ho capito. E va bene. E sarà con grosso? Insomma, 300 grammi sarà di più. La rattina era bella, siete quasi 800 grammi. E l'altra mezzo chilo, là. A me non me lo dire mai, no, quando vai. La massa di nevaria. Ma sono andato qua, che erano le 3:30. E sono salito poco fa. Era troppo freddo già, non fa. Volevo provare a calamari, ma c'era questo vento di maestrale, era fastidioso. Calamari bisogna andare adesso che c'è freddo, se no non li vedi più. Ma se c'è mare brutto non ne prende più. Non va. Calmo, capito. Il problema è quello. Quello è vero. Avanti lui. E adesso vediamo, quello che non lo credo un carnetto vado in barca, mi faccio un po' di ricchi di blu a casa. Cappa, vai, hola, insomma. Cappa, io tra un po' vi lascio e ci sentiamo dopo. E anche io fra poco stacco, che devo portare giù il cane, che però devo uscire, quindi si può truccare prima. Che è? C'è un leone, non è un cane. Ah, cos'è leone, bravo. Bravo è quello che abbiamo noi. Io sono un babbazzone a freddo. Tanto, e lui se non conosce la gente, chiede a Claudio se gli fa le feste a Luca, perché li conosce, capito? E se non conosce le persone, che le vede poco, lui è territoriale, quello sì. Vabbè, è normale. Ci abbiamo in deposito il setter. Ah, ma i setter sono bravi, sono da caccia, sono cani molto mansuiti. Oh, è un babbazzone, sono due babbazzone, cioè bravi proprio. Perché loro li usano per caccia, capito? Ma sono cuoricini, sono bravi, bravi. Sì, quei cani lì sono di indole, bravo. Ma i molossi sono così, anche quello di casa non penso che perdoni se entra da chi lui. No, sai, non fate tutto, quando sente un estraneo, ci vuole lo attacca, cioè capito? Capiamo noi che è un estraneo, sente un estraneo là fuori. Beh, il cane è così, il cane si fa il territorio e abbaia se c'è gente strana, è normale. Se non è che la conosce la gente, allora la scodinzola e fa. Ma con chi conosce, guarda, che viene a casa, gli fa di sempre i vizi. Grande gamma. Tu, ma te non ti vede spesso, scusa, e tu vieni ogni tanto a portare la bombola, quella volta lì sei venuto con Sara, vabbè, la volta che ti stavo morsicando. Qua è un pezzo di mare, dai, solo che è un cane un po' particolare, non accetta molte smancerie come certi cani che vi accarezzi e cose. Lui sì, lo accarezzi, poi dopo un po' si stufa, mi capisci? Fatto bugie. Ok, dai, io vi devo lasciare, ci sentiamo. Ciao. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Ciao, sentite Sara che stavo salutando. Ciao Sara. Ehi, K. Ciao, ciao, ciao, ciao. A Londra, hai capito com'è? Troppo freddo, caro Gianni, e non fa... Fra, sta scendo per male, mi sta scendo tutto gracchiante. Gracchiante, ancora? Guarda un po'. E ancora, deve essere l'alimentazione, guarda, guarda, controlla l'alimentatore, che adesso non hanno male questo. Io non lo sento così. Hola, hola. Ma sta scendo bene, Franco, già. Io l'ho sento gracchiante. E anche un'altra volta era così. Ma forse perché sono troppo vicino. Non lo saccio. Stiamo ascoltando e sto facendo bene. Luca, come mi ascolti tu? Una bomba. No, vai, siete troppo vicini già, ti arriva distorto. Prova a attenuarlo un po' a vedere, fa la prova. Perché a me la Maria arriva talmente forte che non batte, capito? Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso va meglio. È talmente vicini, siete talmente vicini, poi lui è talmente forte. A me la Marina mi arriva distorto. Lo devo attenuare, se no non capisco. Aspetta che attacco l'apparecchio, là. Invece qua a casa no. Qua a casa no, è perfetto. RFG è aperto. È perfetto. Non è forte la radio, bella. Gabagaba è questa. Questa è una radio, era la radio di Gabagaba. Sì, è una radio di Gabagaba, voi ci devo dire per la vita mia. Gabagaba, di quella. Martedì, mercoledì, andate in cudicio qua a casa, due ore e sei, pensando mi sono sette, che mamma mia, e cosa che ti fa dei anni di carriera, mamma mia, mi sei impiccato, cazzo. Domani diceva altro brutto, adesso qua a casa, e vado già non entra. Luca, come sta andando questo microfono, perché la batteria stanca? Sta andando? Troppo alto è già, abbassalo. Appagano, 1, 2, 3, uscendo sto? Eia, sto uscendo, state. Merda, sì, oh. Eia, bene, oh. Io bene vado, sì, oh. Prova, Già vai bene. Io sono povero, da un misero baracchino. Prova a parlare, fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anche con questo ti senti autorizzata. Aspetta, almeno anche questo. Perché ce l'avete vicini già, neanche a me mi manda il coso in distorsione giù. Giù arriva più forte, perché ce l'ho di fronte. Qua arriva forte uguale, però non mi fa quel problema, capito? Non ti arrivo fra a casa, ci arrivo 9.30, 9.20, quanto arrivo? Sto uscendo, sì. Eia. Cappa, va bene. Franco, quando ti arrivo a casa, qua? 9.40, sì. Beh, ce l'ha aggiunto, ricordo quando ti arrivo, di meno. 9.25. Vabbè, qua sono più vicino. Non lo so, perché mi fa quel problema lì? Come viaggi già di Serraria? Ma che microfono è? Master Cruise. Ma c'è la batteria per la stessa di un mezzo per quello lì. Ma scarica un bel vaccino. Guarda adesso che l'ho abbassata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, adesso è compressa la sensazione. Guarda a te com'è. No, dov'è? Il tempo è uguale, forte, chiara, la tua radio non è compressa qua. Allora, il problema, magari da te, non lo so. Sì, perché siete vicini, capo. Ma non potete domandare controlli una attaccata dall'altra. Il controllo dovete chiederli a chi è un po' più distante, a me, a qualcun altro. Voi siete troppo attaccati. Forse anche per quello. Dai, io sto uscendo con 10 watt, non di più, capito? Comunque a me arrivi bene, fra. Forse, vabbè, allora in linea d'aria sei più vicino a Gianni, Non credo che è più vicino a Gianni, dove è attaccato a Gianni, cosa... è come quando parla Claudio Di Muro, scatto la carbonata e mi arrivava a 9.10, non che mi arrivi 9.60. Ehi, clama, dallo stadio, ma come si dice? Claudio Distorsione mi manda giù. Questo è il Tanner, beva. No. Ma con questo va bene. C'è il malatoso. Non mi piace già il cupa come radio. No, non è questione di cupa. Il cupa non mi piace. faccio per scegliere chi è quello lì. Eia. L'altra mi sa che era migliore di questa, eh. Questa boh, la sento strana quella radio già, no? Forse perché siamo troppo attaccati noi. Dunque, là, Franco c'è un bel bene, ma la radio c'è. Non quell'altra era mia che c'è la radio. Tutte le radio mie escono bene. Ma lascia bene veramente. Meglio di quella c'è proprio, non lo sai. Questa è proprio bella. Non lo so, boh. Io mi ricordo la tramutazione che usciva bene, ma non come questa. Questa me ne ha furata, ragazzi, bel foot, non gliene voleva volare. Quella me l'avevo fatta per me, come questa è 140, ma schicchia forte. Sì, io lo so, non mi piace di 140, perché non c'è squelce, ce ne abbiamo la sentita sempre, mamma mia. Manco c'è 80, c'è lo squelce in AM, te l'ho già detto, 430 e 440 c'hanno lo squelce in AM, c'è 80 e 140 no. Però quella lì me l'avevo fatta per me, capito? Mi ha parlato io, però, cazzo, mi ha parlato lo squelce, cioè, dovessi sentire sempre questo coso, questo rumore del QRM. Lo so, vabbè, sicuramente è un problema. Ma questa che l'aveva fatta, là, quella persona là. Cosa? Ho detto che l'aveva fatta quella, questa radio, quella persona famosa. No, una volta che l'ho imparato me l'ho fatta io, no, non ce n'è persone famose. Non ce n'è persone famose. Quella l'avevo fatta io, come mi sono fatto questa, il 140 e tutte le altre. Io l'unica che non ho mai fatto sono il 430 e il 440. Perché sono più difficili da fare, ma 140 e 80 li ho sempre fatte io. E kappa. Va bene, ma non male che scalda, comunque sale sempre di più, capito? Quindi adesso io ce l'ho a coso, a 5 watt e va a picchiare sui 30, dai. Ma questa radio? Cosa? Questa come va? Questa c'hai anche un innesco. C'è qualcosa che non va già, nemmeno questo è il microfono, controlla, ragazzi, tu c'è sempre i attaccanti antenne e attaccanti. Cazzo, ma con la mano ti puoi prendere un bel commutatore, bello però, non della ZG, bello, come c'ho io. Io ne ho comprato uno della Daiwa a 4 vie, a qualche adesso ho staccato perché c'è la T250, quindi ancora meglio perché la T250 c'ha 4 ingressi d'antenne, quindi ancora meglio. Però io c'avevo quello lì, l'ho conservato, l'ho pagato, 120 euro, ok, però è un signor commutatore dove tu attacchi un'antenna, lo giri al contrario, attacchi un'antenna e poi vai con gli spezzoni alle radio. E non manco non stai tacca e tacca. Ma questo non è un problema di antenna, se funziona bene la radio è questa che non funziona bene. Ma cazzo, ma allora tu quando io ti dico le cose non mi comprendi, parti sempre in quarta, ti ho detto anziché fare tacca e attacca, guardarci pure che mentre stacchi un connettore, magari certo, si può staccare il puntale, si può staccare la calza, lo muovi, invece non muovi niente, ti attacchi tutto le radio e commuti, oh, basta. Certo, noi la prima volta no che ti sei staccato, che ti è andato in corto uno spezzone. Per non fare queste cose, per non fare attacca e stacca, lo so che l'antenna non c'ha niente, assolutamente, però attaccando e staccando, provando le radio, puoi magari danneggiare un coso, uno spezzone, un collettore ti crea problemi. Cercate a frusciare. Oh no, California, cosa ne dici? E infatti io già c'ho il commutatore qua, c'ho il commutatore dalla live io, con tre uscite, un ingresso e tre uscite. E io me ce l'avevo presa a 4, per tutte e 4 le radio. E invece adesso c'ho la T250, che è arrivata stamattina, e c'ho che quello fa commutatore, rosmetro, wattimetro, raccordatore automatico. Avevo sbagliato il buco, adesso è a posto, vediamo. Ecco qua, accordato, stazionario, quanto ce n'è? Stazionario, vero, a posto. Fino a quanto arriva quello lì, mi sa, fino a 200 era? Sì, 200 watt, fino a 200 watt, ma no, non c'è problema, ma io sto andando con 40 watt, modulati 50 o 70 watt. Sì. Vabbè, io c'ho il coso, l'FMG. Sì, vabbè, ho un'altra cosa. Questo raccordatore su di linea, già lo sai. È nato per questa radio, è elettricismo. Certo, il wattmetro e il rosmetro sono non precisi di più. E poi è preciso anche lo strumento. strumento del 140 questo, perché lo smitter io ho trovato perfetto alla T250. 40 watt sta segnando nella radio e 40 watt sta segnando nella T250, no, uno segna 30, l'altro segna 50. No. E vabbè, quelli sono perfetti, non è che sono accordatori buoni quelli. Sono 1.700.000 miliardi, costava un decino. Io ne ho visto uno che era sul sito radioamatori, 180 euro, poi ce ne ho visto un altro di un tipo di nuoro, lo sta pagando 150. E io così l'ho pagato, l'ho fatto oggi, pensavo che non arrivasse, pensavo arrivasse lunedì, invece arrivi oggi, va bene, non c'è tutta la linea, 140, PS50, AP250, SP430, MC60. È tutto a posto, adesso è completa, io c'ho anche la colonnina adesso. No, ce l'ho completa io, è completa anche quella del 430 uguale. Adesso poi posso anche invertire, la T250 posso anche attaccarlo al 430. Va bene, Gianni. Ma il bombolino che fine ha fatto? No, ma adesso come si sente? Sempre il passato ti sento io, non so gli altri, io ti sento sempre cupo. Vai, Fra. Sì, Gianni, sei cupo adesso. Non so cosa dire. Adesso va meglio di prima. Meglio di prima, ma è ballatosa. Prendi il microfono. Ecco Master Bruce, è il cursore, quando la passa, è molto, si sente così. Il cursore che ha problemi, secondo me, da mettergli un po' di strada. No, non è chiara la modulazione già, lo vedo che stai sollevando e salendo, non è un problema, ma non è chiara la modulazione, non è come quella che stavi usando prima, capito? Se io ti attacco l'Eco Master Plus, che ce l'ho uguale al tuo, lo attacco al Galaxy e tu te ne metti di vita. Evidentemente era un microfono, scusami, è impattata, sembri Saturo. Secondo me c'è qualche problema nel cursore, nel coso, nello slider del microfono. Di solito quei microfoni si consumano i carboncini interni, capite? Fanno questi problemi. Io ho scelto un po' Saturo, non so, cos'è vuoi che ti dica? Bene questo radio, grazie, non li voglio bigliarmi. Questa era la mia, lo stesso mi fra. Questa me l'ha portata una persona che conosci, ha cambiato la batteria al litio, l'hai telefonato, vieni a prendere la radio che è pronta, ti ho cambiato la batteria al litio, le memorie. No, la sto vendendo, non ne voglio più, commenti. No, non ne voglio, guarda, ci dice a vendere, ma vabbè, vieni a prendere i soldi allora, va, meglio bene. Hai fatto benissimo. Poi queste radio sono dei treni, non morire mai, ui. Poi il microfono, l'MC60 è il suo microfono, ma io ho provato ad adattare anche l'MB4 ed esce forte lo stesso. Quindi già ovvio che c'è forte, questa è la mia. Gli ho dato un altro paio di trucchi, due cosettine gli ho fatto. No, io vaggio Caterpillar, no, maggio 2.440 io. Assolutamente. Io ho 430 e 140, 757 GX2 Cat System, ultima serie. Sono delle radio eccezionali. Vanno bene. Oh, questa qua è nuovo, già l'hai visto, non c'ha un graffio. Che questa? Trattata veramente, questa era 4 anni dentro l'armadio, dentro una busta. È andata a prendere, l'ha accesa, perfettamente funzionante, però non manteneva le memorie. Capito? Ho cambiato la batteria litio per le memorie, adesso è perfetta, memorizzata da posto. Oh, va bene. Va benissimo, sta arrivando bene qua, non ci sono problemi. Gianni, risolto hai? Dai, io sto andando via, dai, sono tutti qui cordialmente. Vado a prepararti, devo fare roba. Ci sentiamo, buona serata a te. Ciao, alle prossime mie. Ciao già, buon curetti, buon tutto. Ce la riascolta alle prossime. Cosa? Ti ha chiuso qua. Gianni. Sì. Quando cade la base, cade la noce, dici sei gradi e attacca, si chi c'è Gianni c'ho su Facebook. La voce deve fare ancora calmare, ma la musciaccia, la cosa più bella, sorridere, eh! Non è ancora un po' Facebook, c'è di mamma mia! Abbiamo bloccato, però c'è Gianni, Gianni Cigaretta. Ciao, un paracchio se vado per il Natale. Gianni Matimbo Burusi. È proprio già lì, tu dici, ma è già lì tu voce, ma no, non ce ne ho Facebook io. Non mi interessa sinceramente a me, no. Lo conosce, beh. Che beh che è. Sì, vabbè. Ho tanti amici anche. Si condivide. Te non frega niente. Capito? Ma se non ti piace più, ma io sono così, sto ammazzare il tempo. Comunque non posso scrivere che sono bloccato. Sarebbe scritto che mi serviva la mail per prenotarmi i prelievi del sangue, cazzo mi hanno bloccato. Cosa? Ho detto che mi hanno bloccato perché in un gruppo ho scritto che mi serviva la mail per prenotarmi, come si chiama? Ma per prenotarmi le analisi del sangue. Cosa cazzo di un chitto di mare? Non c'è più niente di mare. Ma allora non preso diversamente, c'è quel ticchio. Non lo so. Sì, vabbè, comunque. E così è, non c'è quel ticchio. Non c'è più. È un casino, sì. Ma come vuoi più? Non so che è andato. Franco. Stavo facendo... Stavo ascoltando la lezione qua, il computer Radio Mazzuri, stavo seguendo una lezione, quello è finito. Gatto, gatto. Cazzo, questo coglio l'ha buttato quel bambino di 3 anni da cosa? Cioè, due cani di cibo, di due cani che... Allora. E dal... dal terrazzo. Vedo se fosse esaurito, chi so, che problema mentale va. Intestino di capo, no, non è possibile. Buttati tutti, buttare, ma lascia i bambini. Boh, non c'è un cazzo. Paura assassa di uomo, minaccia i passanti armato di coltello. Ma dimmi tu. E questa com'è, Luca, la radio? Va bene anche questa. Metto bidoncino, no? Va bene. Va bene questa. Ora, ora, ora. Questo è le coso, va. L'MB più 4. E che hai visto? Ora, ora. Ah, ecco, c'è per me che è abbassato, capito? Deve essere Claudio. Lui, aspetta, sto provando un'altra radio. Qua c'è 920, radio 5, buona. Cap system. Ah, va bene, va bene. Ai, ai, ai. Mi ci avrei portato a un'altra cosa. Ah, sì. Ne ha. Adesso salite la potenza di segnale, fra. Salite. 9.25 sì da me. Funziona allora, certo se funziona. Aspetta, mettiamo 40 watt. Cazzo più di 100 watt ha detto la radio. No, sta di memoria. Cazzo più di 240 ne dà. Beh, esce forte. Buona, anche come modulazione, no? Alla grande, sì sì. E ogni tanto io commuto a usare altre radio, sennò qua se la lasci spente si rovina. Oh, allora. Adesso sto usando un'altra radio, e ho fatto proprio quella lì, poi attacco questa, poi ne accendo un'altra. No, ma io ce le ho tutte in fila, già lascio stare così, non c'è problema. Oh. Luca Ariello. Se vuoi una cosa. E via, sempre di sigaretta. No, allora chissà, il nipote la chiama nonna, sì, nonna, ha breve passo a tirar via le piante che ho seminato nel tuo giardino, che è la marijuana, no? E non hai rifondi. Affanculo. Aspetta, se mi viene male a leggere. No, no, risponde, tranquillo, che la già tirate via a nonna, che erano infestandomi tutti i grapanelli e i gerani. Allora tu godili. La tua voce è diventata la nonna con Roma. Allora fumenti, fumenti, allora. Sì, sì. Mamma mia, come si trova. Addirittura spiega in telegrafia, quando telegrafia non venne. Ah, ti la faccio fare in culo, dice, ma lo già sta spiegando, oramai batto un esame, è buco, così va. Ho finito domande. Ma infatti la telegrafia non mi interessa. Vabbè, lasciamo sempre quelli che la telegrafia le piace, capito? E lì trovi un cranio, via. Questo addirittura fa proprio lezione per gli allievi radiomaturi, capito? Spiega tutto e fa vedere il video, tutti i calcoli, tutto. Vabbè, meglio di stare col libro e fare lezioni qua, capito? Ogni sera ce n'è una e la segui. Vabbè. A poco, mezz'ora dura una lezione. Ma te no che vi so, addirittura 20 persone in aula. Allora, vuole dire un mio amico positivo, prima negativo, ma positivo. Non se ne comprende più un cazzo, il cazzo di rigore sua. Non se ne capisce più un cazzo. Io sono sicuro che se facciamo tutti, siamo tutti positivi. Cazzo di altro. Ma è questo che ce l'ha fatto in farmacia? Ci ha fatto molecolare e è diventato positivo. Ah, lui. Aspetta un attimino. Cosa, Cla? Ho detto, era negativo in farmacia. Ha fatto il molecolare ed è positivo. No, ho fatto quello che ho fatto io, quello il classico, là. Ehi, ci conosciamo dalle dimatture. Fatevi il molecolare, fatevi. Almeno vi togliete il dubbio. La farmacia lo fanno qua da Lanieri, No, se ve ne hanno udera o fra Caterraia è negativo. E ha fatto molecolare alla 10 e Cateri positiva. E infatti sono stati buttati, quindi 15 euro buttati sono in farmacia. No, se ve ne hanno udera, sono dei pagliacci e buco. Sono buttati in vano, gatto. Quanta gente qua, l'altro giorno c'era la fila sin fuori per fare questi tamponi. Cosa qua? Amplificata la radio. No, va benissimo, io ti ascolto bene qua. Non lo so, Luca. Luca, come lo senti? A chi? A Claudio. Bene, se non lo dico niente lo sento bene. Cosa non c'è? Se non ti dico niente, vuol dire che ti sento bene. Ah, una bella modulazione anche questo. E questo è... ma esce molto bene. Dunque tu lo stai usando? Io il Superstar 2009 non avevi più 4. Esce bene, una bella radio, Io ci avevo il Typhoon, l'ho venduto, Typhoon, ce l'ho giù quello. L'altro modificato l'ho venduto. Siamo nei vazzi, tanto non piazza nessuno, poi ne vuoi cambiare tanti di storie, va. Vabbè, comunque l'ho fatto fuori, non mi interessa. Quando devo fare le chiamate, nel 45 vado con questo, normale. Se ci riesco mi compro il 747. Per aiutarmi un po'. Sì, 747, c'è la GBC 90 euro. Che cazzo? Da internet costa sulle 78, mi pare. E adesso vediamo. Io ne ho uno in macchina, il B150, funziona benissimo. Già funziona bene, però è meglio il 747 fra. Sì, vabbè. In certe radio il B150 non lo puoi montare perché va a strappare. Io l'ho piazzato in macchina con quello che ho, con quel Midland vecchiotto, e va benissimo. Ma va bene anche sul 48 perché posso abbassare e aumentare il watt, capito? Quindi lo posso pilotare così. Vabbè, certo che sì. Gappa gappa. se me la dai 10 in ingresso, non va bene. Quindi io lo faccio uscire con 3 watt e lui funziona benissimo. Ti sto dicendo che ieri era la cosa, l'argentiera, con quell'antenna mi hai dato tu, con quella frusta nera, e vi sentivo io. Ci hai preso con i trendi? Allora, ma capito, io ti ho sentito, hai fatto un passaggio prima che vanno di Santiago 5, S5, poi hai attaccato ed eri S7, capito? Però ti sentivo perfettamente. Dalla macchina. Ed ero pure in zona molto, in zona bassa, E così vuoi dire? Che antenna minore davvero qua, se ho provato con la cosa, con la PCL 800, c'ha le stesse uguali cose, non cambia niente, addirittura con questa ricevi anche di più. No, funziona bene, è alla grande. Non mi so più in circolazione di questa antenna, e poi ne aveva una GG Vulcano uguale. E gli avevo, non so se l'ho fatta io, forse l'ho fatta più, non c'è. Pinocchetto ci aveva la vecchia frusta nera che c'ero io qua. Quella di volta io a Pinocchetto ce l'ho ancora. E io ne ho un'altra uguale a quella di Pinocchetto, anzi ne ho altre due, non una, no, due ne ho uguali a quella di Pinocchetto. Quella tutta caricata sin su. Come quella che c'è a Pinocchetto? Si vede piatta sin su. Quella l'avevo piazzata in macchina quando ero giù a Sentino e era una bombetta lo stesso, funziona benissimo. Era che lo stilo di, della via della Corso, ma mettete dalla boomerang va bene lo stesso. Infatti io quella della boomerang, il radiale della boomerang, la uso come antenna in macchina perché è già tarata 1-1, capito? Ma sta chiamando bella antenna quella, ce l'avevo nella 127. Io ne ho 3 di frusta, anzi aspetta, 1, 2, 3, 4 ne ho. Chiappo, buonasera. Siamo anche a Claudio. Io ce l'avevo nella 127, la 100 capota, ma era bizantica. Quella che c'ho io è tutta caricata da giù in su, ma l'ho provata qua e funziona benissimo. Sì, anche la mia era caricata, c'aveva la regolazione nella punta, c'aveva nella stazionaria, era tutta caricata, ma era bizante, lo so, anche questo è così, Claudio è andato a fare cosa? Poi mi ascolti fra. Bene. 5-9. Sì, sto facendo scaldare questo apparecchio che era da un bel fermo, capito? L'ho messo in funzione. Io uso lo risolto sempre questo. Ups. Dagli altri non me ne frega niente, ma se si guasta lì c'è guai. Infatti conviene usarlo ogni tanto perché sennò si rovinano, capito? Il 680 è questo, fra. Il fratello di questo. Che diciamo che c'ha qualcosa in più, ma è uguale. Non ma niente, quello che c'ha, ma c'ha solo la scheda della. Le 6 metri, e poi va, ma c'è quello che tu. E poi la c'è le cose l'amplificatore, ma allora sì. Non serve a niente, è tutto. Solo che era bello se avrebbe avuto tutti i filtri. Lo so. Filtro NB1 e NB2, cioè, ma non è che. Ma a me non mi cambia la situazione quando gli schiacci. No, ma neanche qua, Secondo me non ci sono i filtri dentro, secondo me. Io non l'ho aperto ancora a vedere cosa se ci sono, ma penso di no. I filtri nel 680 ci sono qua, NB1 e NB2. Assolutamente no, sono tutti open sono i filtri. Io li ho dovuti mettere al 140, al 430, solo al 440 c'è i filtri. Però già costano quei filtri a metterli dentro. Che parli. Allora, quello del 430 l'ho pagato 120 euro, quello della M. 120, tu hai dato 40 euro di filtro e già rimane così. Ma solo il filtro è 6.000 di attrazione, gli altri sono tutti opzionali, FM, AM, tutti. Vabbè, invece c'è il 440, ce l'ha già di origine, così è. Quello completo, quello ce l'ha tutti, lo ce l'ha tutti. Infatti lo sai come cambia, perché è molto rumoroso il 140, il 680, anche il 430 senza il filtro AM è molto rumoroso. Lo sai quando metti il filtro cosa cambia? Diventa così vizioso, un po' con QRM, meno scarichi, meno tutto 140. Ma costano un casino, ragazzi. Troppo. 240 euro, ragazzi. Ma non vi so, non li vendi in più. Devi trovare così su internet, capito? Qualcuno te li sta vendendo. Non ce n'è, non ce n'è più, non li vendono più. Non è che li puoi ordinare se li piazzi, no. È una cazzata a piazzarli, cazzata, oddio. Non è una cazzata a piazzarli. Perché se usare bene il saldatore, sì, se no, buchi, c'è tutto stampato. Però, no, non li trovi, capito? A me me li ha trovati Fabrizio su internet, ma Stati Uniti, da quelle parti lì. Non ho capito. Infatti no, io li stavo guardando io l'altro giorno, se no, non ci sono, capito? Ce n'è più, no, Petti, no, ce n'è più, capito mi hai? Infatti non si trova più niente di questi, apparecchi. Io ti ho detto, io ho comprato la T250, ricollegato alla 140, che va bene anche al 80, il correttore di linea automatico, c'è la linea completa, boh, l'ho compreso ben lungo, basta. Opera. Ma che segnale c'hanno quelli del 680 i filtri? Uguali sono, tutti uguali sono. Sono tutti uguali. Adesso me ne ricordo le sigle. Però sono a colori, capito? Uno è verde, uno marrone e uno... Non ricordo. Due ne ha. Ne ha due, NB1 e NB2 sono i filtri. Ah sì, bene. Quello è il noise blanker, fra. Cazzo, ma sì, tu vieni il radiomattore, confonde l'ana con la zeta. Sta c'entrano i filtri con l'NB. NB è un attenuatore di rumore, un'altra cosa. Io che allora filtrano, io però questi qua c'ho qua. RT, NB1 e NB2. Dove li stai guardando? Quello di dal frontalino. Ah, tangente, lì c'è un noise blanker, non c'entra niente col filtro che c'è dentro. I filtri che ci sono dentro sono un'altra cosa. Ah, ecco, ho capito. È predisposto per montare i filtri all'interno, dai. Se tu li copri, lo si 80, lo metti al libro. Guarda che ci sono dei rettangoli lunghi, tutti forellati, lì ci vanno i filtri. Ho capito, sì. Ne ho visto quando l'ho aperto per pulire la ventola. E ci tutto stampato. Ma quelli agiscono automaticamente? Certo, certo, non è come il 440 che c'è il selettore dei filtri. Quelli sono automatici. Tu vai in AM e c'è il filtro M, vai in SSB e c'è il filtro SSB. Agisce direttamente, vai in FM e c'è il filtro in FM. Capo, no, anche io pensavo come ha detto Franco, perché questo NB1, NB2, pensavo che dovevi staccarli e inserirli. No, quella è un'altra cosa, non confondete la classe. È un'altra cosa. A chi dice che hanno dei clici non succede nulla? Infatti a chi non si vede nulla, diceva NB level, è il livello di noise blanker, basta. Non si vede proprio nulla, capito? Mentre invece nel 430 c'è il 430 c'è il risultato NAR wide, che vuol dire largo e stretto, capito? E quello agisce col filtro inserito, come il 440, mentre il 680 e il 140 sono baracchini a sintonia continua, fra io cazzo non hanno niente a che fare con il 430 e con il 440. Cazzo, beh, vabbè. Non usai a chi li sai, dagli usami io. Fra, dall'87 che usate il radio io, cazzo, dall'87. Quindi già le conosco molto bene, non ti preoccupare. Adesso io, te l'ho detto, ma l'unica spesa che ho fatto perché era un affare, mi hanno fatto fare un affare, me l'ho comprato, c'ho la linea completa del 140, ho anche la T250, lo sai cos'è la T250? Sì, già l'ho avuto, poi me l'ho venduto. Di linea automatica e c'ho tutta la linea completa, poi c'ho la linea del 430 e la linea del 757 GX2 CAT System, poi vabbè gli altri sono materiali eccetera, questi sono per la 27. Capo, sì, no, io ce l'avevo completa, ce l'avevo, mi è rimasta solo la colonnina, la 430 mi è rimasta e la radio. La T, c'avevo la T250, qui c'avevo anche l'alimentatore suo, c'avevo, tutto completo. E poi gli altri due me li avevo venduti, ma tanto tempo fa. E io ho un attore di linea, il PS50, che ne ho due, uno sul 430 e uno sul 140. 50 perché adesso che piatto la trentenna, la 5 bande la inserisco lì, capito? E così comodo, smartecchio per la 27 e la 5 bande per fare la tecca. La trentenna mi sembra, se mi ricordo bene, ci vanno lì, no? Sì, è bello per quello, fare il commutatore d'antenna 4, serio, commutatore serio, no, lì si cambia, serio. Lo so, io ho visto un giorno 200 euro, l'ho visto in internet, e io uscì a pigliarla, ma me l'ha fatta inutile. Quello è il prezzo suo, non c'entra, quello è il prezzo suo. Avanti, il tariffo. Questo le prendo io. Sì, in definitiva ne ho visto uno, Claudio, lo sto dicendo, 150 euro, 160 euro lo vuole quel tipo di muro, mi sa che ce l'ha ancora. No, ho pagato di meno io. Disponibile, adesso vedo un po' se mi risponde, me lo prendo. 150 euro ti può pigliare. Alla grande, te l'ho detto, le 200 li stanno prendendo. Io ho pagato meno di 150, però la giubilato subito, ma subito però. E questo anche, ha messo la foto anche del nuovo pure come. Ma mi sa che non c'è il cavo, Boh. No, se è attaccato se l'attacca il culo. E come fa a farlo funzionare? Che a tutti non vai un cavo. Sei capace a fartelo. No, io la prima cosa che ho chiesto, il carretto ce l'hai di commutazione dalla radio alla T250 originale, quello grigio con i due connettori pin a 8? E lui mi ha detto sì, mandami la foto. Mi ha mandato la foto, ho contattato quel carretto, era quello che dicevo io, ho detto ok, mandami il numero del PartiPay che la T250 è il mio. E mi sa che questo cavetto non è. Adesso poi gli mando il messaggio di nuovo a vedere se c'è il cavetto. Perché se non c'è il cavetto è un casino, devo farmelo io il cavetto. Ah, è un casino a farlo, mi sono brutale che è un casino a farlo, Sono 8 punti, devi stare molto attento, schema in mano, perché c'è l'autocontrollo della GC, deve andare sulla GC, c'è il PTP, c'è ricezione, c'è trasmissione, c'è commutazione elettronica, c'è il selettore di banda collegato, meno è facile, due giorni di vendita. Sta vendendo o c'è? No, lo trovi, fra, non lo trovi. È bello casino, vedi. Ora vedi, al limite gli dici, no, senza il cavetto mi costa più il cavetto, poi se no me lo dai 100 euro e va bene. E vabbè, ma poi il cavetto lo devi fare, ed è un casino, devi trovare un capo uguale a quello che c'ha e copiarlo a quello, capito? Per evitare di fare casini. Un altro capo devi trovare per farlo uguale. E poi gli spinotti, bisogna vedere se si trovano anche gli spinotti. Sì, che si trovano, sono quelli a 8. Adesso glielo dico, se me lo dai 100 euro, se no dico non lo voglio. Se c'è il capo va bene, se fa capo 100 euro me lo prendo, se no se lo bene. Ma chiediglielo. È così, cosa ne faccio senza il capo? Devo fare il capo, devo fare tutto. Vabbè, non è il problema di farlo. Non è così facile. Uno costruisco io, bravo, dite a me, lo costruisco io. Sì. Come sì, basta portarmi con l'originale e lo faccio uguale. Non mi stai complicando la galla, cazzo vai, fate l'immaginaggi. Vabbè, fai di blu come la luna. Sì, non è l'originale, guarda, vado mandato l'originale. Se abbiamo avuto l'originale, aveva detto l'originale, no? No, trova presa da qualche amico, se ce l'ha, cosa c'entra? Ah, ecco, allora sì. E mi sa che gli spiriti sono pure vulcanizzati di quel capo. Colori, e cose, vai. Sono vulcanizzati, allora un casino così. Mi sa di sì, Claudio, sono vulcanizzati quegli spiriti, sì. No, mi sembra di nome. Sono tutto gonfio. A me mi pare di sì, fra, mi sa che mi ricordo che erano grigi ed erano vulcanizzati, boh, non voglio dire stronzate, ma... Boh, non me lo ricordo io com'era, come l'hanno fatti i connettori. Il connettore che va alla radio è diverso da quell'altro. Beh, infatti, adesso mi ha mandato un messaggio a Verosarice. Io ti sette a gavetto, vedo qui. Poi piano piano mi ha trovato. Sì, ma già non sarà un problema. Già te lo regalo io, vado, dove butto la mondezza a stanza di chissà quanto è troppo. Ciao Antonello, con Cuneo, la mazza che te ne scende. Dai l'Antonello che le parli lui. Lui? Non ho mai tentato di quelle cose. Guarda su Facebook cosa ti ho messo, fra. Le baracchini spagnoli stanno vendendo. E cosa me ne vuoi tu, Antone? Ui. Guarda lì tutti e due. E la vedo, uno è un Connex, l'altro è un attaparecchio. Lo sta vendendo uno spagnolo, completo. E quanto gli sta dando, Antonello? Non lo so quanto gli sta dando, guarda che filmato. Non lo sarei adesso, uno spagnolo è che gli fa. Non ve lo devo guardare. Facciamo un guarda. Dove è Antonello? Su Facebook. Si chiama così anche lui. Mi ha detto, gli ho detto guarda, sono venuto qua per cercare lavoro. Cioè, ha controllato nel computer, ha detto stai tranquillo, altro che non ti chiameranno mai, mi ha detto. Puoi stare tranquillo. E perché? Perché tanto non ti prendono, mi ha detto, cioè, per l'età che c'hai, quindi puoi stare tranquillo con la cartina, puoi fare quello che vuoi, mi ha detto, ah, bene, meglio così. Oi, oi, oi. Allora, comunque c'è Kenwood TS-130S, AT-250, cavo di connessione, auto tunnel su misura, costa 43,67€ più 14,86€ di spesa. C'è un Kenwood che stanno vendendo? Ebbene, sette mala! Ebbene, a tu. Gappa, gappa. L'apparecchio sembra che stia funzionando, Se te lo vedo non c'è niente l'apparecchio. L'unico problema è se dovesse scaldare il finale. Dietro, se scalda il finale va in protezione e in automatico ti scende la parte a zero. Dopodiché prendi la... lo riaccendi e parte nuovo come prima. Hai capito? C'è una specie di protezione c'è all'interno con l'apparecchio. Beh, pompetta, rientrato sì. Pompetta. A me sei zendi lui. Rientrato te sì. Stavo andando a prendere il coso dall'aerospin. Il misto soffritto. Ma non va andare tu, cazzo, ci sono troppi puntaggi, viso, non ti fidavo. Sono poi della mascherina. Io mi sarei fidato. Poi vedi dunque, così che ti dopo me. Troppi contagi, cazzo, pure la moglie di Salvatore è positiva, va. Cazzo, allucinante, basta uno me, e da tutti i contagia. Ma fini munera, cosa? E mi contagia se abbia cosa che lasciamo perdere, dove troppo cofallo. Non mi devo chiedere di chiudere una sfera di cristallo. Ah, non ti preoccupare. Mi fa molti vuoi, cazzo, proprio per il duviso. Io ci hai piso, tra una cosa e l'altra, quasi sentito, tra medicina e... Mi sei suonato. No, ma guarda, lasciamo perdere, va. Ora, ora. Ma io voglio vivere, no, non voglio vivere nel terrore. Ho capito, tutti vogliono vivere nel terrore. cazzo, no? Sono tu, no? Sicuramente che fai? Ma purtroppo siamo... Purtroppo c'è, perché c'è? E pizzicando a tutti, da tanto. Cazzo, vuole che se ne voto uscire stasera, mangiamo una pizza, qualcosa, lì si può una massiggiata, no? Così poi... Scusa. No, non voglio continuare il discorso, se no capo adesso te lo dico. Cioè, non negozi la situazione, fregatene tu. Cioè, lasciamo perdere, va, che non negozi. Scusa un attimino, adesso ti faccio una domanda io a te. Fai il caso che tu fai il tampone. Sei positivo, cosa cazzo fai? Esci. Ho detto che io non mi fido di questi cretini, che sono cretini, io non andavo a un nulla loco, chi se rubia, ne si tiro zacca, non ti dico io, punto. E vabbè, tu la pensi così, pensa la così. Vai a cuccia, vai! Guarda, ci sei? Zucca! Zucca! Eia, ciao dottor! Io come posso essere attendibile a un po' di chi c'è goce che tutta canta una favola, ma smettiamola, non ne voglio mai convinti, dimmi, cioè che oggi ti dà positivo, domani ti dà zimacola, è un'influenza, che è come un'influenza, basta, te l'ho spiegato anche poco fa, te l'ho spiegato, sicuramente mi raggio passata pure io, perché sono stato male, ma non è stesso nulla, grazie a Dio sono vivo, vegeto, e sono tornato a cosa. Lasciamo perdere, va. Cosa c'è? È morto qualcuno? Si è morto? Nessuno, stiamo parlando di chi sa fare, di chi c'è un gambone e cose. Ah, della Omicron. Omicron? Omicron deve aver meno che. E Omicron senza onde, solo micro. È così che la penso, fregatene, che si tiro. Se io sto parlando vuol dire che so pure qualche cosa, non ti preoccupare. Che ha già passato qualche recinì tutta questa cosa. Ehi, vabbè, però ti ripeto, non bisogna sottovalutarla, a parte gli scherzi, è una cosa che non bisogna sottovalutare, tutto qua. Infatti quello che gli ho detto io, non è una cosa, la pensa così, la pensa così, cazzo, perché anche io se la pensassi così e lui la pensava mai come me, io avrei fatto la stessa cosa che fa lui, ma sicuramente non è così, perché diciamo anche io un po' la stavo sottovalutando, anche non vi credigo, però mi sa che erano sti cacci in mezzo e non siamo contenti, e vabbè comunque. Allora è un casino, tu i vaccini fatti li hai. Secondo te non la giovate, a paro noi devo andare a fare l'Uberto, quello buon piano in capo. E so, Luca, ascoltami un attimino Antonio, tu. Io, quello che hai avuto tu, ce l'ho già avuto. E non ha giovato nessun casino, adesso ho fatto qua a casa mia, mi sono preso le medicine, mi sono preso gli antibiotici, la tachipirina, a me è passato tutto, non sono andato da logo, e a me la TS, mi tribone, la faccia in culo, a me la TS non mi vede, e sto bene, e sto molto più bene di prima, so, punto, sono una massa di vigliacchi, cazzo, avanti ragione, adesso ti ho detto papere, non ha giovato da nessuno me. Ma scusate, ti sei curato da solo o prima del medico? Mi sono curato io. Ho trovato anche il medico, mi ha dato qualche cosa per l'influenza. Mi è passato tutto, sto bene, sai cosa vuol dire bene? Sto bene, punto. Ecco perché io te lo dico, non parlo a bambera, ecco perché io te lo dico, mica però sono andato a dirlo a te, Cimbroni e Sicario. Mi sono curato, ragazzi miei, in casa mia, punto, finito. Ok? Finito. Cosa aspetta? Cioè, non è un discorso che non attaccare a muro nella giornata, secondo me. Perché uno è, cioè, anche io sono stato male. Sono andato dal medico, sentimi, sono andato dal medico. Ho detto, dottor, cosa così? Non mi sento bene, siccome appuntamento con il dentista.